l'Emilia che riparte. Emilia sognante, fra l'oggi e il domani, di cibo motore, di lusso valere. Un saluto e un augurio di buone feste da Federico Taddia. Radio 24 non si dimentica degli emiliani che hanno vissuto il terremoto neppure in questi giorni. Riascoltiamo quindi insieme alcuni dei momenti più belli dello speciale andato in onda in diretta da Mirandola lo scorso 14 dicembre. Questa è l'Emilia che riparte. Cara terra, so che ti facciamo paura. Per questo tremi, ma ti promettiamo di cambiare. Non faremo più il possibile, ma cominceremo a fare l'impossibile. E ti prometto che costruiremo ospedali, dove ci andrà chi non si è mai fatto niente. E li chiameremo ospedali grandi illesi, così si imparerà a capire prima quello che potrà capitarci dopo. Ma soprattutto ne costruiremo altri, dove ci andrà chi crede che trivellare la terra non abbia conseguenze di nessun tipo. Chi costruisce ovunque, chi risparmia sulla sicurezza del lavoro, chi pensa che finché non capita a lui, non interessa, e li chiameremo ospedali grandi illusi, nella speranza che adesso capiscano. Prometto che impareremo a capire quanto tu sia maiuscola e quanto noi non si possa più essere così minuscoli. Perché il rapporto uomo-natura non diventi il rapporto uomo-inconsapevole-natura morta. Alessandro Bergonzoni. Buonasera e benvenuti all'Emilia che riparte, questo speciale in diretta da Mirandola. Siamo qui a Villa Tagliata, sono Federico Taddia, chiedo scusa per la voce un po' afona, ma è anche questo frutto del tempo e del maltempo di queste giornate. Una serata dedicata all'Emilia che riparte, che sta ripartendo. Non solo una giornata, un periodo, Radio 24 in queste settimane è voluta essere qua, presente in Emilia per vedere, per toccare, per analizzare, per denunciare e per raccontare. Questa sera qui ci sono delle voci, ci sono delle facce, ci sono delle storie dell'Emilia che è stata, ma soprattutto dell'Emilia che è. E sono contento di aver aperto con la voce di una delle ragazze dell'ISSE, l'Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Luosi di Mirandola. Sono stato oggi in visita nella loro nuova scuola e stasera saranno protagonisti con le loro voci. Ha iniziato Benedetta e ce ne saranno anche brani tratti da Alzando da terra al sole, parole per l'Emilia, perché siamo anche all'interno di una manifestazione, perché qui la cultura che riparte, Castello di Libri a Mirandola in questi giorni, e ci piace quindi dar voce ai libri. Qui con me al tavolo alcuni degli ospiti della serata, al padrone di casa diamo il benvenuto al sindaco di Mirandola, Maino Benatti, vai di cuffia. E anche di microfono, perfetto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Grazie per l'accoglienza. Come sta Mirandola oggi? Beh, Mirandola oggi sta in piedi. Prima era in ginocchio, però noi dobbiamo farla correre. E questa è l'idea che abbiamo tutti. Quindi abbiamo fatto tante cose assieme, ma tante ancora sono da farsi. E quindi io credo che abbiamo davanti una prospettiva di rinascita della città, di questo territorio, ma dall'altra parte sappiamo bene che saranno tanti problemi, tante le preoccupazioni, purtroppo ancora sono tante anche le sofferenze, le persone che hanno perso la casa, che hanno perso il lavoro, che hanno perso il reddito e che quindi abbiamo bisogno assieme a loro di avere una speranza, ed è quella che vorremmo costruire nei prossimi mesi. Sindaco, questa domanda la farò anche dei suoi colleghi. Questa sera ci sono diversi primi cittadini dei comuni più colpiti. Chi è stato, cos'è stato, cosa ha significato essere sindaco in questi mesi, al di là del partito, al di là degli elettori, al di là delle elezioni, al di là della propaganda? Ha vinto il politico, ha vinto l'uomo? Vi siete sentiti punti di riferimento? Vi siete sentiti anche magari sovraccaricati di incombenze, di istanze, anche oltre le vostre competenze? Perché credo che sia umano, che sia lecito. Ma lei ha usato una parola che non so se in questo contesto si può usare. Chi ha vinto? Non abbiamo vinto nessuno. Credo che tutti i sindaci abbiano fatto una cosa, hanno fatto tutto ciò che potevano e tutto ciò che dovevano. potevano come persona, tutto ciò che potevano come persona, stare alzate per tanti giorni senza andare a caso a letto, essere in prima fila e così, ma come persona, quello che dovevano come istituzioni, cioè essere lì, riferimento, decidere a volte anche in situazioni molto difficili, doversi prendere delle responsabilità, sapere bene di essere, avere la responsabilità di una comunità, sperando di aver lavorato al meglio. Voglio parlare subito con Bianca e Luca, anche loro delle... Giù il microfono, Bianca e Luca, perfetto. Anche voi che fate parte di questo istituto che racchiude più scuole, vero? Sì, sì, c'è il liceo classico, linguistico, ragioneria e istituto tecnico commerciale. Sì. Anche voi, la vostra scuola è iniziata in ritardo perché è stato di fatto ricostruito, però avete un calendario ricchissimo di attività alternative. Sì, infatti abbiamo le prime settimane di scuola quando non avevamo la possibilità di avere una struttura. E in attesa delle strutture provvisorie abbiamo partecipato a una serie di conferenze trattando diversi aspetti, dalla filosofia alla geologia, e insomma abbiamo approfondito sia l'argomento terremoto, ma anche ci siamo abbiamo pensato ad altro. E il titolo era Sapere antisismico. Sapere antisismico, che racchiudeva bene questa cosa. Però anche con te, Bianca, volevo parlare di oggi. Cioè, è cambiato qualcosa? Chi sei oggi? Cosa ti senti? Come ti senti rispetto a questa terra che è cambiata? Insomma, il terremoto è stato a maggio e sono cambiate tante cose. Guarda, ci prendiamo il tempo di due lacrime che ci stanno. No, stai tranquilla, guarda, perché abbiamo in collegamento un amico dell'Emilia e ci piaceva aprire anche con un suo contributo, con le sue parole, ed è il maestro Pupi Avati che ben conosce, ben ha raccontato l'Emilia. Buonasera Pupi Avati. Buonasera a voi, buonasera. Grazie per essere qua con noi, anche se a distanza, ma è il bello della radio. Per lei l'Emilia oggi cosa rappresenta? Che immagine ha da regista? Perché un regista ha delle immagini, ha delle visioni. Come la vede l'Emilia di oggi? Ma alla luce, intende alla luce del terremoto? Alla luce anche del terremoto, alla luce di questa energia che comunque si è sprigionata. Energia sì, fatta, appunto. No? Io penso anch'io che la definizione giusta sia una nuova energia. Quindi mi sono trovato in qualche modo... a ridosso degli eventi, a paragonarla, io sono talmente anziano per cui ne ho un ricordo molto nitido a quello che è stata l'esperienza del primo dopoguerra, cioè a trovarsi praticamente, uscire in via San Vitale, trovarsi al centro di una città in gran parte distrutta. Ecco, e lì è ricominciato un po' tutto, i rapporti umani sono completamente cambiati, migliorando sicuramente, si è trovata una solidarietà sicuramente non espressa precedentemente, si è tornati tutti quanti, persino mio padre che era un antiquario, al fare, quindi all'usare le mani, la forza fisica, a impegnarsi in cose e in situazioni nelle quali veramente nessuno della mia famiglia è stato impegnato, a ridare valore a delle cose assolutamente essenziali. Quindi a ritrovarsi un po' come dopo quella sorta di catastrofe che ho vissuto personalmente, che è stato il mio infarto. Insomma, mi sono uscito dal mio infarto con una gerarchia dei valori, delle cose completamente ribaltata. Ecco, allora, vogliamo dire che questo terremoto, che è stato sicuramente devastante, ho visto alcuni centri della mia terra, che tra l'altro sono presenti come sfondi in alcuni miei film, spazzati via, quindi chi vedrà, non so quando e come, ma alcuni miei film non ritroverà certamente più quelle chiese, quei palazzi comunali dei centri storici di alcuni centri dell'Emilia, ma al di là di questo, ecco, la possibilità di riconsiderare la vita attraverso quest'ottica, che è appunto ricominciare da capo. e questo è l'unico aspetto positivo che riesco a vedere, ma non trascurabile, certamente non secondario. E la mia gente in questo, e io lo so perché l'ho sperimentata a ridosso all'inizio del 46-47, in quegli anni là, l'ho vista veramente capace di una risurrezione, di ritrovarsi, di ricostruire e di rimettere in piedi una situazione, una città, un paese, una comunità, con un'energia, una forza e la capacità di non piangersi addosso. Grazie davvero, un saluto a Pupi Avati da Mirandola, grazie per le sue parole, buon lavoro e buon Natale Pupi Avati. E tra l'altro Bianca, torno a te perché ti ha dato il là, vero? Perché ha parlato di una parola che so che ti è molto cara, che è la parola valori. Sì, ecco, 2 giorni dopo il terremoto mi ricordo che la mia compagna di banco mi ha telefonato per chiedere come stavo e io le ho detto, io in questo momento, cioè, la cosa che desidero di più è tornare a scuola, perché ci siamo veramente resi conto tutti che ci sono dei valori di cui non possiamo fare a meno e ovviamente uno di questi è la scuola. Lei mi ha detto, hai ragione, e adesso che non ce l'abbiamo, per distrarci un po', se vuoi domani io vado al palazzetto dello sport, che ci sono dei bambini che vogliono giocare, che sono rimasti senza casa. E io, è stata una cosa bellissima. E Ernest Hemingway, nel suo libro Il vecchio e il mare, scrive che non pensare alle cose che non hai, pensa a ciò che puoi fare con quello che hai. E per me, adesso noi tutti abbiamo imparato che ci sono questi valori di cui la scuola fa parte e sono essenziali: la famiglia, la propria casa. La ricchezza non serve a niente. Grazie Bianca. Qui arriva Luca, al quale oggi ho chiesto, Luca, ma cos'è per te Mirandola oggi, ora, proprio in questi minuti? E tu mi hai detto, ci hai pensato un attimo, ti sei guardato intorno, hai pensato alle tue giornate, alla tua quotidianità, e hai detto, è un paese fantasma. Sì. Non... Che non vuol dire che è un paese che non esiste più, non c'è più quel paese in cui ti riconoscevi, in cui ti ritrovavi, in cui sapevi dove andare quando volevi incontrare i tuoi amici. Esattamente. E il problema, cioè, quello che è stato a cuore di molti compaesani, forse, è stata la perdita del nostro centro storico, il nostro simbolo, cioè. Il simbolo di Mirandola era il nostro centro, il nostro castello, le nostre chiese, i nostri monumenti. Io parlo come giovane, ho perso anche qualche luogo di ritrovo con questo, però cioè, come tutti quanti dopo il terremoto, come ha detto il sindaco, ci siamo rialzati e adesso stiamo tentando di correre. Noi dal nostro piccolo cosa abbiamo potuto fare? Essere volontari può essere un esempio, come ha detto Bianca. Anch'io ho fatto questa esperienza nella scuola media, che era diventato il centro organizzativo. E poi finalmente è stata ricostruita la scuola. Grazie. Con questo... Insomma, hai fotografato bene quello che è un sentimento comune che ho anche percepito dai tuoi compagni. Grazie davvero per le vostre testimonianze. Vi faccio accomodare e chiamo sul palco altra energia, altre cose che sono accadute in quei giorni ma che poi hanno avuto un eco. Uno, lo stiamo vedendo, lo state alle mie spalle, so che non è molto radiofonica una fotografia, ma il nostro pubblico sta godendo di queste immagini, e inviterei qua Carolina Paltrinieri. Vieni Carolina. Ah no, sei lì con il microfono, perfetto. Carolina, stiamo vedendo più di 300 immagini di un'associazione che si chiama Shoot for Emilia, che però è una costola di un'associazione più grande. Raccontaci. Shoot for Emilia è una campagna che è stata lanciata da Shoot for Change e Protezione Civica. Shoot for Change è nata 3 anni fa, poco dopo il terremoto dell'Aquila, e racchiude all'interno di questa organizzazione fotografi professionisti e non, che vogliono raccontare i dimenticati, cioè le persone di cui non tutti parlano. E quindi Shot for Emilia è stata lanciata proprio per continuare a raccontare quello che sta succedendo qui, perché la paura era che non se ne parlasse più dopo un po'. E quindi fotografi di tutta Italia sono venuti in vari paesi colpiti dal terremoto, hanno raccontato quello che stava succedendo, da piccole storie a grandi storie, e hanno mandato i loro reportage, i loro scatti a questa organizzazione di Shot for Change e sono stati pubblicati per continuare a parlare di questo brutto avvenimento. Shotforchange.net è il sito ufficiale per conoscervi e per vedere anche tantissime fotografie che noi ci possiamo gustare qua. Grazie davvero a te e a tutto il tuo team, so che siete in tanti e scattanti e questa cosa ci piace. Poi mi hai dato il là per fare una domanda al sindaco. Quando a Radio 24 abbiamo proposto di fare questo approfondimento, il direttore è stato il primo che ha detto sì, bisogna andarci, perché quello è fare servizio pubblico, perché sono passati 6 mesi che non è un'eternità, è un tempo breve, però è un tempo lungo nel senso che poi si dimentica. Vi sentite dimenticati in questo momento? Diciamo che il tempo di solito è molto relativo, e allora è molto lungo il tempo che è passato per chi sta soffrendo, chi non ha ancora una risposta, è molto breve per chi invece ha la necessità di correre e quindi ha bisogno di risposte, di avere risposte. Noi abbiamo bisogno di, oltre all'aiuto che abbiamo avuto nei giorni, nelle settimane passate, nei mesi passati, abbiamo bisogno ancora di aiuto. Noi, come si diceva prima, ci siamo rialzati, tante sono state le mani che abbiamo avuto vicino, che ci hanno aiutato, la solidarietà di tanti enti locali, associazioni. Abbiamo bisogno però dell'aiuto dello Stato, e l'aiuto dello Stato deve essere costante, e sicuro, perché questa terra ha bisogno di risorgere per aiutare lo Stato a risorgere. Quindi non può esserci altra via, quindi deve esserci la consapevolezza che il governo deve intervenire, e così come ha fatto nei primi momenti, ancora, perché tutta una parte di risposte ancora non siamo riusciti a dare. Vedo l'assessore regionale che sta prendendo appunti, poi gli daremo spazio per le risposte. Lo Stato che aiuta, i cittadini che si muovono, questa dinamica, questo equilibrio che per fortuna ha generato anche tanta solidarietà, ma anche tanta efficienza e tante competenze in campo, perché alla fine è quello che fa la differenza. Con noi c'è Franco Visentin, coordinatore regionale Emilia Romagna Informatici Senza Frontiere, una onlus che mette l'informatica al centro, ma per l'uomo. Esattamente. Chi siete e cosa avete fatto? Siamo una onlus, come ha detto correttamente, nata nel 2005, formata da diversi professionisti, impiegati, manager, nata a Treviso. Essenzialmente cerchiamo di dare un aiuto per abbattere il digital divide, cioè tutte quelle tecnologie che a volte sembrano astruse e che non sono di dominio di tutti. Quindi se mi si impalla il computer non chiamo voi, là però dove c'è bisogno, come è stato nel terremoto, voi intervenite. Esattamente, infatti un nostro associato di Medolla, lo stesso giorno della prima scossa, è intervenuto per rendersi disponibile e mi ha subito coinvolto come coordinatore regionale. Per cui da quel primo giorno funesto sono intervenute una quarantina di nostri associati, volontari, simpatizzanti, che un po' da tutta Italia sono intervenuti e hanno dato una mano ai sistemi informativi dell'Unione dei Comuni Modenesi, coadiuvandoli nelle varie attività che andavano semplicemente anche dallo smontare dagli ambienti considerati non sicuri per rimettere in piedi un sistema informativo che poi veniva utilizzato un po' da tutti coloro che avevano bisogno di accedere ai dati del comune, quindi che erano pompieri, protezione civile, chi aveva bisogno di andare al catasto, l'anagrafe canina, un esempio molto anche banale che può sembrare però anche toccante, perché per uno che ha un animale rintracciare come è successo, vi invito ad andare a vedere anche sul nostro sito di Informatici Senza Frontiere, c'è proprio un blog anche che parla sia di coloro che hanno vissuto la loro esperienza come volontari che anche chi ha ricevuto il nostro aiuto, come ad esempio questa signora che ci ha ringraziato per aver ritrovato il suo cane che si era smarrito. Vicentini, in pochi secondi, e adesso di cosa avete bisogno o adesso dove state intervenendo? Stiamo intervenendo in diversi modi, anche coadiuvando ad esempio una donazione in alcune scuole elementari terremotate, a Crevalcore e a San Giovanni in Persiseto, un po' lontani di qua, ma si parlava prima anche che il cratere è abbastanza ampio e si sviluppa in modo abbastanza inusuale, quindi diamo una mano nell'installare questi PC nelle scuole e fare la formazione nei confronti degli insegnanti, dei bambini anche, e questo è quanto. Non operiamo, ovviamente, essendo un'associazione di volontariato, in concorrenza con altre strutture. Grazie davvero, un applauso anche per lei e per voi, visto che per fortuna siete in tanti. Ci ha raggiunto Luca Lombroso, meteorologo e non solo, che ha appena pubblicato un libro che si intitola Apocalypse Now, quindi non nel senso dell'ottimismo. No, il sottotitolo poi ottimistico, clima, ambiente, cataclismi, non ottimistico, possiamo salvare il mondo ora, ma soprattutto possiamo salvare noi, perfetto. Questo è l'importante. È un libro che parla di cambiamenti climatici a livello macro, ma anche a livello micro, ma c'è un capitolo interamente dedicato al terremoto, quello che tu hai vissuto sulla tua pelle, quello che tu hai studiato, quello che tu hai analizzato e anche quello che hai riflettuto. Ma sì, perché la prima cosa, compreso quella notte, che a me sembrava nella prima scossa quasi un sogno, perché per qualche motivo me lo sognavo spesso il terremoto, forse perché fa parte di quello che studio, poi però ho riflettuto, ho detto, però quando arriva un forte temporale o un'alluvione, non è che diciamo, qua sono i cambiamenti climatici tutti al riparo, e che i cambiamenti climatici arrivano in modo più strisciante, però dal terremoto possiamo imparare, dato che è successo, meglio che non fosse successo, anche a come adattarci ai cambiamenti climatici che abbiamo causato, ma soprattutto anche a come mitigarli. Ecco, ma dal punto di vista ambientale hai sentito dire molte cialtronerie? Le analizzo proprio, ci si è sbizzarriti, secondo me, per vari motivi. Il momento di preoccupazione, in quei giorni mi sono attivato anch'io, soprattutto Twitter insieme a te, è stato un momento, il terremoto di Twitter, e notavo in paese da me, ma anche con amici che abitano qua nella Bassa, che ne ho tanti, che avevano bisogno di informazioni e di sentirle dire da persone fidate. Non so se io ero effettivamente così fidato, ma sentivo che molti mi dicevano, se lo dici tu ci credo. Perché per vari motivi nascono varie leggende o vari timori, eccetera, comprensibili, ripeto, che però dobbiamo un po' scavarli in fondo e forse anche di fronte anche ai cambiamenti climatici e quello che ci aspetta nel futuro, prepararci anche con dei team, perché no, io mi chiamo qua catastrofologo, cioè esperto di catastrofe, dove vanno a portare l'informazione scientifica nelle comunità che ahimè sono colpite anche da uragani, da alluvioni, da tornado e via dicendo, ma anche, vale anche per i terremoti, c'è anche chi l'ha fatto. Ecco, però siamo tra amici, possiamo dirlo, sai, quando ti presenti come catastrofologo, una toccatina se la c'è. No. Io lo dico qua proprio ai miei concittadini. Vedeteci come l'hostess in aereo che vi fa il briefing di sicurezza. Là ci sono le uscite di sicurezza, speriamo che non servano, ma se capita di averne bisogno possono salvare la vita. Lì ci sono le maschere di ossigeno e nessuno dice all'hostess mi tocco i cosiddetti. Anche se una sera prima di partire per un volo aereo, la sera prima faccio zapping e mi è capitato Airbus 77, quindi, no, e l'ho guardato. Se suoni terremoto e guardi il sole ogni tanto lo suoni in quanto meteorologo. Sì, assolutamente. Poi ci sono varie citazioni, varie cose, e soprattutto sono disponibile a portarne l'informazione anche qua nelle comunità, perché ne hanno bisogno, insomma, anche di quello che c'è, e l'appello che torno a fare è di ricostruire per il futuro, cioè tenendo conto anche del risparmio energetico e via dicendo. La parola sostenibilità infatti si sente molto, per fortuna, in termini di ricostruzione. Grazie davvero a Luca Lombroso, grazie, per grazie la testimonianza, Federico, ma anche per l'impegno quotidiano. Soprattutto grazie a voi tutti. Grazie a te. sul tavolo invece adesso qui con me, insieme all'assessore che continua ad ascoltare, a prendere appunti, storie di imprese, sono tre storie, due in particolare, è un imprenditore che ha deciso di, anche lui, reduce da una storia molto legata al terremoto, di costruire una sorta di rete e dare anche un marchio a queste imprese che hanno scelto di continuare a lavorare anche in situazioni di difficoltà. Quindi do il benvenuto ad Alberto Nicolini, editore di Radio Pico di Mirandola e presidente della rete impresa Terre Mosse. Salve Nicolini. Grazie dell'ospitalità, grazie del vostro interessamento. Radio Pico, che è radio qui di Mirandola, giusto? Da 36 anni, sì, a Mirandola, anche se lavoriamo su una decina di province in tre regioni diverse. In 36 anni per belli, di crescita, di confronto, di presenza. Bellissimo. Sulla città, di cui gli ultimi 6 mesi passati in un container. Prima di un container, della verità, sotto una tenda e in uno studio mobile che era un camper sostanzialmente, però sì, attualmente ancora in container. E che valore ha avuto l'informazione locale in quel momento? Cioè, ci si aggrappa, no, ai punti di riferimento della propria comunità, e la radio da sempre è questo, e la radio locale ovviamente ancora di più. Sì, è stata, nella disgrazia, è stata la scoperta di un fortissimo legame col territorio, un fortissimo legame con tutti i nostri ascoltatori. Legame a cui abbiamo cercato di dare, ovviamente per quello che riuscivamo a fare, tutte le risposte. I primi giorni con molte difficoltà, perché comunque dopo la scossa del 29 avevamo qualche difficoltà logistica, nel senso che lo studio mobile era ai piedi della torre, non sapevamo, della torre ufficio. Noi abbiamo la sede al sesto e settimo piano, quindi vi lascio immaginare durante la scossa come abbiamo ballato. Non avevamo la possibilità di raggiungere lo studio mobile, che però non c'era, dove le apparecchiature non si erano mai fermate, quindi la radio stava continuando a trasmettere senza che noi potessimo avvicinarci al microfono. Ora pochi minuti di pausa, poi torniamo insieme per riascoltare alcuni dei momenti più belli dello speciale L'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte. Dobbiamo tenerla d'occhio questa terra, attenti che non sia cementificata, depotenziata, scavata e riempita contro le regole e contro la logica, insomma contro la natura, come è negli interessi di alcuni, per esempio la criminalità organizzata, che anche qui ha messo radici, ma non di tutti gli altri. Insomma, bisogna che questa paura ci insegni ad amarla di più, questa terra, a pensarla, capirla, rispettarla, altrimenti lei si arrabbia e, come ha fatto in tante parti del mondo, si muove e ci scrolla di dosso, anche qui da noi, in Emilia Romagna. Carlo Lucarelli. Grazie davvero a Laura, che ha messo al centro la natura amica, che però diventa natura cattiva, che diventa cattiva perché lo è, perché è l'uomo che la tratta male. Sono domande che comunque abbiamo ascoltato, no? Perché è vero, si fermano le fabbriche, si fermano le aziende, ci sono i feriti, ci sono i morti, c'è un mondo che si muove, e queste domande che le fai. Vittima del terremoto è stato anche Mauro Mantovani, titolare della Aries Biomedical Device di Mirandola. Con noi c'è Massimo Trentini, direttore marketing, insieme a Paolo Arcangeli, direttore del MEX Lumificio Palmieri di San Prospero. Due marchi, due aziende, due imprese, due entità forti, presenti, e soprattutto che si sono caratterizzate per voler andare avanti. Trentini, per voi, oltre al lutto, la difficoltà del lavorare in quelle condizioni, cosa ha rappresentato quel momento? E soprattutto adesso invece, dove siete? Dunque, intanto saluti a tutti. Dopo il terremoto del 29 noi abbiamo perso, ovviamente come dicevamo prima, oltre che al titolare abbiamo perso anche un amico e una guida, quindi di fatto siamo trovati senza capannone, con gli uffici inagibili, la produzione da spostare e fare tante cose che di fatto non sapevamo fare. E allora abbiamo cercato di come diceva il sindaco, di rialzarci, di spostare quello che c'era da spostare, di fare mille lavori ininterrottamente tutta l'estate. Quindi abbiamo cercato di rimettere in piedi l'azienda, abbiamo fatto le prime spedizioni ai clienti, che nel nostro caso sono gli ospedali, quindi, e non si sono accorti del nostro disagio. Quindi già 15 giorni dopo il terremoto noi eravamo in grado di spedire, la produzione ha riaperto alla fine di giugno. Perché spostata. Immagino che non ci si poteva fermare per voi, perché era la vostra impresa, il vostro lavoro, ma neanche per loro, nel senso che poi ci sono professioni a cui sono legate delle vite, come nel vostro caso. Cioè, noi avevamo anche la responsabilità di fornire gli ospedali, non solo gli ospedali fuori zona, ma anche gli ospedali stessi di Modena, insomma, che erano in emergenza. Quindi, infatti, il giorno del terremoto noi eravamo a svuotare i magazzini per poter fornire il materiale anche a chi ce lo chiedeva, che materiale in più. Purtroppo è venuta la scossa e adesso siamo rientrati nell'azienda, abbiamo riaperto gli uffici, la nostra sede, quindi sempre a Mirandola, e la Camera Bianca è rientrata anche a fine di ottobre, e adesso stiamo cercando di, nonostante mille difficoltà, di recuperare, di andare avanti, di correre, come dicevo prima. Paolo Arcangeli, direttore MEX Lumificio Palmieri di San Prospero. Paolo, per lei una domanda secca, diretta: cosa vuol dire lavorare oggi? Perché prima lo raccontava, ho percepito delle cose che uno se le immagina, che ne so, chiedere a una ditta concorrente di fare i vostri prodotti, cioè date le vostre ricette, loro, cioè cose strane, cose curiose, cose che non si potevano dire? No, si potevano dire. Si potevano dire. Ok, perfetto, ho visto che ha cambiato espressione per un attimo, ho temuto. Buonasera, anch'io vi ringrazio per l'ospitalità e l'opportunità che ci date. Lavorare oggi in un'azienda ferma come la nostra, ancora in produzione per il sisma, e comunque lavorare in questa zona significa galleggiare in uno strano mondo a cui non eravamo abituati. Certamente sono cambiati, lo è stato detto molto bene dai ragazzi nella prima parte della trasmissione, sono cambiati i rapporti sociali, è cresciuta anche l'informalità e la facilità con cui ci si relaziona. Portato nel mondo delle imprese, questo significa avere anche la disinvoltura, il coraggio e la immediatezza per fare proposte o richieste che potevano sembrare impensabili fino al giorno prima. Cambia la scala dei valori. Nel nostro caso siamo un'azienda alimentare abituata a cicli di produzione e di vendita molto veloci. Già poche ore dopo il sisma era chiarissima che l'entità dei danni era gravissima e che lo stabilimento sarebbe rimasto fermo, se mai fosse ripartito, per un periodo di tempo molto lungo. E quindi da parte di tutti quelli che hanno potuto dare un contributo, devo dire con una prontezza dei riflessi degna di considerazione, sono state fatte nelle primissime settimane, ma direi giorni, delle scelte, delle decisioni anche di fantasia, perché nessuno ha il prontuario per fronteggiare delle situazioni così straordinarie, e quindi si è cercato qualche concorrente che potesse ospitare almeno in parte le nostre produzioni, si è cercato immediatamente qualche magazzino, i nostri fra l'altro sono per merce deperibile, quindi abbiamo bisogno anche della catena del freddo, qualche magazzino non troppo distante che potesse ospitare le merci che si erano salvate per continuare a servire i clienti con quello che avevamo in casa. Cercare degli uffici per poter far sì che il personale commerciale delle vendite permettesse di avere ancora il contatto al mercato, perché al di là della preoccupazione, della paura per i familiari, noi per fortuna non abbiamo avuto vittime come nel caso precedente, ma la paura è stata tanta, l'imprenditore chi lavora in queste imprese di natura familiare, dove il legame con la proprietà è molto forte, va subito al mercato e alla sopravvivenza dell'azienda. Quindi nel giro di 2-3 settimane le scelte e anche la realizzazione delle cose indispensabili per far sì che l'azienda, sia pure bloccata nella sua attività produttiva, possa continuare a spedire i propri prodotti, sia pure fatti in casa da altri, con situazioni di emergenza che sono state poi migliorate nei mesi successivi. E siamo ancora in questa situazione. Cosa, in sintesi, cosa manca per fare veramente lo scatto giusto? Manca, da un lato, nel nostro caso, la bacchetta magica che accorci i tempi di ricostruzione fisica dello stabilimento, perché probabilmente tra la data del terremoto e quella in cui cominceremo a produrre a casa nostra passerà almeno un anno, e questo è un tempo interminabile, anche se l'azienda lavora ed è presente sul mercato, è evidente che lo stiamo facendo in una situazione di assoluta emergenza, con dei costi anche indiretti che leggeremo solo alla fine. Nessuno si è preoccupato di valorizzare precedentemente cosa sarebbe costato lavorare in condizioni di emergenza. Su un piano più pratico manca o ci vorrebbe l'ottimizzazione, per così dire, delle relazioni con gli enti e gli istituti da cui adesso dipenderà l'erogazione dei contributi, e quindi segnatamente sono di fianco all'assessore regionale che ben rappresenta questa cosa. Perfetto. Scusate. No, niente, se no la cuffia, se no funziona. Il microfono funziona. Okay. E quindi speriamo di riuscire a interpretare correttamente la normativa, che è inevitabilmente complessa, che cambia di giorno in giorno. Dal governo agli enti locali e il commissario regionale hanno prodotto una quantità veramente importante di norme. Quella che adesso riguarda più segnatamente la nostra esperienza sono quelle che riguardano ovviamente l'ordinanza che riguarda l'erogazione dei contributi alle imprese, ma ci sono anche quelle per i soggetti privati e attività non produttive. Ci sarà bisogno, io credo, di costruire, come sta cercando di fare la regione, ma forse anche con più efficacia, un rapporto diretto in cui gli organismi pubblici possano essere sentiti di fianco alle imprese in questa fase, non come l'interlocutore a cui inviare attraverso il portale semplicemente l'accesso alla domanda dei contributi. Che mi sembrano richieste chiare. Nicolini, proprio in 30 secondi, con uno slogan, che cos'è questo marchio? Che cos'è Terre Mosse? Valore dell'appartenenza, appartenere a un insieme di valore, un territorio di valore, un legame ad aziende che hanno ripreso, stanno riprendendo a lavorare. Attenzione, riprendere a lavorare non vuol mica dire riprendere a guadagnare. Nelle condizioni di emergenza in cui siamo, le aziende cercano di mantenere quote di mercato, ma la produttività e l'economicità della gestione è veramente molto molto bassa. Però la volontà di venirne fuori c'è. Le aziende hanno rappresentato in questi 6 mesi, lo rappresenteranno ancora di più nei mesi, negli anni che ci aspettano, un insieme di valore. Aziende non a caso, perché è l'insieme, gli imprenditori, i collaboratori, gli operai, gli artigiani, tutto il distretto, che poi al di là del biomedicale, diciamo che tutta la filiera produttiva ha rappresentato un valore su cui poter contare. Continueremo a lavorare e lo faremo sulle nostre terre mosse. Grazie davvero per le vostre testimonianze e vi chiedo di allungare questo applauso per dare il benvenuto alla nostra prossima ospite. È di Crevalcore. Diamo il benvenuto a Jessica Rossi, campione oro olimpico del tiro a volo quest'anno a Londra. Ciao Jessica. Ciao. Mirandola che ti saluta, tu di Crevalcore. Grazie, tu che certo. Lo hai conosciuto questo terremoto? Sì, purtroppo sì, l'ho conosciuto, diciamo non in prima persona, ma l'ha conosciuto la mia famiglia, quindi è come se l'avessi vissuto io. Sono rimasti fuori casa per circa 2 mesi, quindi è stato un periodo molto duro anche per noi, insomma. Uh-huh. E sei tornata di recente a Crevalcore? Come l'hai ritrovata mesi dopo? Sì, ci sono stata, sono riuscita a fare un giro anche nel centro, però è veramente una desolazione, ci sono ancora veramente tanti lavori da fare, quindi si va avanti e cerca di non mollare. Mm-hmm. E per un personaggio pubblico come te, diventata famosa da un giorno all'altro, perché questa è stata la bella realtà, la bella favola che ti è successo, no? Una vita di pochi anni, perché sei giovanissima, di sacrifici, però sei diventata famosa nel giro di un oro olimpico, che è tantissimo, lo so, detta così fa quasi sorridere. E ti sei sentita caricata di responsabilità, ti sei sentita testimone, ti sei sentita che potevi fare qualcosa per la tua terra? Potevo farlo, lo sapevo. Io praticamente dai giorni prima della gara sono stata raggiunta da alcuni giornalisti sul campo di allenamento a Londra e mi è stato chiesto: se vinci una medaglia, a chi vorresti dedicarla? Io non ci ho pensato 2 volte, ho pensato subito a tutti i terremotati, a tutta l'Emilia, insomma, quindi era una cosa a cui tenevo e che mi veniva veramente dal cuore. Grazie davvero Jessica per essere Grazie stata qua con voi. Noi questa sera, in bocca al lupo per la tua attività sportiva. Sì, grazie. So che volevi esserci, ma sei ad Avellino, non è proprio dietro l'angolo. Sì, ciao. Infatti, purtroppo non ci potevo essere, però volevo esserci comunque, quindi questa telefonata mi ha fatto solamente piacere. Grazie a te. E abbiamo parlato già diverse volte questa sera di essere punti di riferimento o di tornare ad essere punti di riferimento. Qua con me adesso Susi Tinti, comandante della Polizia Municipale Unione Terre d'Argine. Buonasera Susi. Buonasera a voi. È cambiato qualcosa? Cioè, va meglio la situazione adesso? Qual è stata la tua risposta? La mia risposta è che stiamo tentando di tornare alla normalità e quindi, ahimè, i cittadini ricominciano ad odiarci un po', perché qualche sanzione, qualche verbale abbiamo ricominciato a farlo. Avete ricominciato a fare le multe? Questo vuol dire in parte, anche per fortuna, un ritorno alla normalità. Tu ci hai scritto una mail, o meglio, ci hai riportato quello che avevi scritto nei giorni del sisma, dove ti sei trovata con un uniforme addosso, ancora da Polizia Municipale, tu come tutti i tuoi colleghi, però di fatto non c'era, era trasparente quella divisa, c'era qualcos'altro, vedevano qualcos'altro in te. Sì, diciamo che abbiamo cercato però di nasconderlo il più possibile. Noi stessi eravamo terremotati, alcuni dei miei colleghi hanno perso la casa, hanno dormito in tenda, hanno dormito in auto. Nonostante questo, ogni giorno si sono presentati al lavoro con turni massacranti e davanti ai cittadini non potevamo far capire, far vedere che cosa noi provavamo, le nostre paure, le nostre ansie. Le nostre ansie e le nostre paure le abbiamo tenute dentro alle nostre divise, quindi abbiamo cercato di essere un punto di riferimento per i cittadini e di consolarli, di ascoltarli, di aiutarli. Abbiamo cercato di nascondere i nostri problemi, i problemi nostri personali. E stanno cambiando le cose in parte, almeno per quello che vi riguarda. Ci hai detto che non lavorate meno, ma lavorate diversamente, lavorate come lavoravate prima dell'emergenza. Dal vostro punto di vista cosa manca? Qual è il bisogno? Cosa vi chiedono ora? Proprio perché stiamo cercando di tornare alla normalità, i bisogni sono quelli di sempre. Vi faccio un esempio molto lampante. Grazie al cielo i centri storici ricominciano a vivere, o comunque hanno voglia di manifestazioni, hanno voglia di stare insieme, di condividere, di essere più sereni. Però, come al solito, la musica è alta e ci sono gli schiamazzi. Quindi dalla nostra centrale operativa, quando arrivano queste telefonate della musica alta e degli schiamazzi, ci fanno capire che siamo tornati alla normalità, perché era quello che succedeva prima. Per 5 mesi nessuno mai si è preoccupato dei rumori in piazza, un po' perché non c'erano i centri storici, non potevano avere manifestazioni. Adesso ritorniamo anche da queste piccole cose alla normalità. Il senso civico si è un po' perso e questo è un po' preoccupante. Facciamo fatica ovviamente a contestare delle sanzioni dei cittadini che hanno perso la casa, che hanno perso il lavoro, però per la sicurezza stradale ci tocca questo compito, lo stiamo facendo in punta di piedi, però dobbiamo ricominciare, insomma. Ci fermiamo per qualche minuto, giusto il tempo delle informazioni per chi sta viaggiando, e poi siamo di nuovo qua insieme per farvi riascoltare L'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte. Vorrei sfuggire alla retorica della comunità ferita che si rialza. Può essere pericolosa perché ogni individuo deve contare su se stesso, sapendo di poter contare sullo Stato, su un'idea di progresso, di futuro. Abbiamo massacrato la terra, l'abbiamo manovrata e vilipesa. Abbiamo deviato le acque e consumato natura, anche qui impietosamente. E ci siamo dimenticati della crepa, delle tante crepe che si possono aprire. L'unica vera vittoria sulla tragedia del terremoto sarebbe quella che riconsegnasse alla gente la convinzione culturale, morale e istituzionale del mondo in cui si vuole vivere, lasciando da parte utopie liberistiche falsamente democratiche. Dobbiamo ritrovare il coraggio di difendersi dal vortice della mortificazione del presente, alzando da terra il sole. Roberto Roversi. E con le parole di Roberto Roversi, lette da Oliviero, anche lui studente dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Lousi di Mirandola, in provincia di Modena, apriamo questa seconda parte di questo speciale dedicato all'Emilia che riparte. Abbiamo scelto di dare voce a tante facce di questo terremoto che ci ha colpito. Io stesso sono di Pieve di Cento, anch'io l'ho vissuto, anch'io non ho più un centro storico, anch'io la mia scuola non c'è più. Ho avuto la fortuna di entrare insieme ai Vigili del Fuoco in questa scuola, rivedere la mia classe, però ho avuto anche la fortuna di andare all'inaugurazione della scuola nuova, quindi non una soluzione dei problemi, ma la soluzione di un piccolo problema. E stasera dalle vostre voci cerchiamo di andare a sollevare questi problemi. È stato fatto oggi pomeriggio in Focus Economia con Sebastiano Parisoni. Questa è l'Emilia che riparte, l'Emilia che fa fatica, l'Emilia che è ostacolata, però alla fine è l'Emilia fatta dalle persone. Questa sera abbiamo scelto di dare voce alle persone. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti, scrivere orizzonti nuovi e superarli. Nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tremano le case, trema tutto il letto, tremano i pensieri e la vita al suo cospetto. Crollano i castelli antichi degli estensi, crollano i nostri moderni appartamenti. E proprio adesso io mi chiedo il perché, di fronte a così tante cose a cui dire addio, mi sento più forte di prima, mi sento più vicino a te. Te che mi cerchi, te che mi chiami in questa nebbia, banchi stanchi noi, aspettando si spalanchino i ricordi, e poi davanti alla tristezza, con l'asfalto che si spezza, il tuo respiro vivo è come il vento, mi accarezza il viso. Puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superati. Nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere. Artisti indipendenti per l'Emilia, questo è il brano che hanno fatto, hanno realizzato, mi sembra, più di 40.000 euro proprio qui a Mirandola pochi giorni fa. C'è stata la celebrazione per destinare questi fondi alla cultura musicale. Do il benvenuto a Fernando Ferrioli, sindaco di Finale Emilia. Salve. L'ho incontrato anche in altre manifestazioni, l'abbiamo vista con Renzi, l'abbiamo vista con Vasco Rossi, che vi ha donato uno scuolabus intitolato Alba Chiara. I bambini la mattina, secondo me, l'Alba Chiara non la vedono tanto, però, la vedranno. La vedranno, esatto. E, un pezzettino di Stato lì nel comune, eravate voi a rappresentare, siete voi che rappresentate lo Stato. Cosa si prova a essere tirati da una parte, che è quella dei cittadini, dei loro bisogni, delle loro arrabbiature, e quella poi della regione, dello Stato, ovvero della nazione, del governo, e lì in mezzo, come si riesce a gestire questo complicato equilibrio? Beh, è devastante, siamo completamente divisi, e siamo cittadini, siamo terremotati, viviamo con le nostre famiglie da terremotati, abbiamo le paure, abbiamo perso le case, abbiamo perso la tranquillità, la quotidianità. E essere anche rappresentanti, giustamente, perché quella fascia tricolore è importante. Noi dimostriamo veramente quello che è la risposta di quello che sono le istituzioni, e le istituzioni ci sono state. Ci sono state a livello, io parlo di enti locali, tantissimo, a livello di regione ha fatto un lavoro incredibile insieme alla provincia. Però io lamento spesso e volentieri, è stata anche nelle parole dell'assessore Muzzarelli, un continuo richiedere e dover lottare su ogni virgola, su ogni metro, già c'è da lottare con il terremoto ogni metro, perché il terremoto ci ha tolto tantissimo. Si è sentito nelle parole dei ragazzi, si sono sentite nelle parole degli imprenditori. Io ho visto la gente piangere per strada anche in questi giorni, piangere per strada perché non riesce, non ce la fa, ha voglia di continuare, ha voglia di sperare, perché quel terremoto ci ha tolto il futuro e la gente ha solo voglia di ricostruirlo, perché quei giorni noi non avevamo più niente. Non c'era più la nostra identità, non c'erano più le nostre comunità, non avevamo più i nostri servizi, e noi non possiamo accettare che tutti i servizi non possano ritornare come il 19 maggio, pre-sisma. Ma questa cosa noi non dobbiamo pensare anche che dobbiamo sempre continuamente lottare. La cosa che mi dà più fastidio è quella di tentare costantemente una logica che i cittadini devono vedere, e quella che devono vedere, cioè siamo terremotati. siamo terremotati. Ovvio che io sono il primo a dire, ha ragione Muzzarelli quando dice le aziende non devono, devono togliersi assolutamente questa cosa, perché possono perdere, la gente fa, non vede l'ora di, dall'estero, dai mercati, non vede l'ora di dire sono terremotati, non ce la fanno, quindi andiamo da altre parti. È giusto anche la reazione che abbiamo avuto, la dignità che abbiamo avuto, è una dignità incredibile che da nessuna parte d'Italia c'è stata, ma questo è vero, perché al di là di quello che uno dice, quello che uno fa, è riconosciuto da tutti. Noi abbiamo dimostrato che immediatamente, il giorno stesso, il 20 maggio, noi ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati in strada, abbiamo pulito le strade, abbiamo cercato di capire dove andare, ricostruire. Noi abbiamo cercato di dare risposte, tutti insieme parlo, non parlo solo dei sindaci, tutti insieme dare risposte per ricostruirci questo futuro. Però la cosa che veramente, è la cosa che odio, adesso lo dico da cittadino, è il fatto di dover costantemente pensare di costruire un rapporto difficile con uno Stato centrale che non si rende conto che in un momento come questo, dopo 4 anni di crisi economica, dopo aver perso tutto, ci deve dare solo. Noi non chiediamo uno sconto. Muzzarelli ha detto, noi non abbiamo chiesto uno sconto di un euro. Abbiamo chiesto solo il tempo necessario per rialzarci, pagare tutto quello che dobbiamo pagare, perché vogliamo solo fare questo, niente di più. E allora questo l'abbiamo dimostrato, non siamo stati qua ad aspettare nessuno, non abbiamo chiesto l'elemosina a nessuno, non lo chiederemo mai, però noi chiediamo ciò che è logico dopo aver subito quello che abbiamo subito. Questa è la voce, questa è la rabbia, che però è una rabbia costruttiva, è la rabbia di chi non si rassegna. Volevo andare invece a Sant'Agostino, siamo in provincia di Ferrara con Fabrizio Toselli, sindaco che ha di fatto perso la chiesa, ha perso il municipio che è stato abbattuto, ha dovuto litigare con Sgarbi, che forse tra le tre è stata la cosa più pesante che era lì, no? Così un po' in crisi isterica. E, la rabbia, sentivo che dalle ultime file, no? Ti hanno chiesto di essere testimone un po' di questa rabbia, che però è rabbia costruttiva. A te cosa chiedono i tuoi cittadini? Ma chiedono un po' tutto, però quello che si è detto prima è che, come diceva anche il collega Fernando, cioè noi chiaramente abbiamo come sindaci, ma la cittadinanza tutta, quella notte ci siamo trovati nelle piazze e ognuno di noi, quando ci guardavamo negli occhi, ci chiedevamo dove era stato il terremoto. Nel senso che nessuno di noi pensava che il terremoto fosse a 2 chilometri invece da casa. È chiaro che quella notte tante incertezze, da quella notte tante incertezze ce l'abbiamo dentro di noi, però avevamo le famose due strade. Una strada era quella di piangerci addosso e dire poverini, c'è successo, eh? L'altra strada invece era quella di comunque reagire, di fare vedere insomma anche che cos'è l'Emilia. Abbiamo scelto tutti insieme, sindaci, cittadini, imprenditori, la strada di non piangerci addosso, ma di far vedere cos'è l'Emilia, e abbiamo cominciato a rialzarci. È vero, come dice anche, come diceva il mio collega precedente, amico, bisogna dire che l'Emilia in tutti questi anni ha pagato tantissime imposte, ha pagato tantissime tasse, ricordava l'assessore, anche a livello di PIL è una zona importante questa Italia, ed è giusto che adesso che invece l'Emilia ha bisogno per via di questo terremoto, è giusto che sia l'Italia oggi a dare una mano ai nostri comuni, all'Emilia. In parte siamo arrivati a dei risultati importanti, perché i 9 miliardi che sono arrivati, nessuno di noi una settimana dopo il terremoto pensava di poterci arrivare. Ci abbiamo provato insieme anche al presidente Errani, che ha lavorato molto bene, sta lavorando benissimo. Abbiamo cercato di portarli a casa, abbiamo portato a casa questi 9 miliardi che ci consentono di avere comunque più fiducia insomma del futuro. Abbiamo però tante cose irrisolte ancora. Una di queste, secondo me importante, riguarda diversi settori, ad esempio il commercio. È uno dei settori. Alla Fiorista, che tra l'altro è del tuo comune. Esatto. Arrabbiato perché che è anche in sala, credo, perché prima mi è venuta a tirare per la camicia, giustamente, perché questa rabbia costruttiva sempre salta fuori. Che non riesce più a vendere i fiori perché non ci sono più le chiese, non ci sono più le messe, certo. Non ci sono più i battesimi, non ci sono più i matrimoni, non c'è più niente. E bussa alla tua porta, però viene da te. Bussa alla mia porta, io vado a trovarla spesso anche. Compri i fiori? Compro anche i fiori. compro. Ma il problema della fiorista è emblematico, nel senso che noi abbiamo avuto un riconoscimento per tutti quelli che sono inagibili, quindi l'80%, addirittura il 10% di possibilità di detrazione da un punto di vista fiscale, però abbiamo tante realtà, tipo la fiorista, o tipo i fioristi un po' del cratere, che casomai sono agibili, ma che hanno inagibile tutto ciò che la circonda, cioè quindi i famosi cimiteri, le famose chiese, quindi tutto ciò, diciamo, per il quale, con il quale possono lavorare, quindi fare il loro reddito, è inagibile. E quindi questo secondo me è un tema da portare avanti, da continuare a lavorare con il governo, perché bisogna, secondo me, fare in modo che anche queste attività, che sono sì agibili, quindi sarebbero fuori da tutto quello che riguarda i possibili esarcimenti, ci rientrino. Abbiamo delle attività commerciali, imprenditoriali, che hanno avuto dei cali di fatturato a volte del 50-60%, e oggi siamo lì a chiedere di pagare le tasse, di pagare le imposte su un fatturato che non esiste, quindi un acconto 2012 su un fatturato 2012 che è assolutamente di gran lunga inferiore del 50-60% rispetto al presunto. Queste sono battaglie che secondo me vanno portate avanti, che come sindaci, ma anche la regione stessa, si sta impegnando sul governo per portare a casa questi importanti risultati, e dobbiamo portarli a casa, per quello che si diceva prima, cioè noi abbiamo aiutato gli altri, adesso è arrivato il momento che l'Italia aiuti noi. E questa era l'Emilia che riparte, la serata speciale andata in onda in diretta da Mirandola per raccontare le storie, le voci e i volti del terremoto. E Radio 24 continuerà con questo impegno e con questa presenza per raccontare l'Emilia anche nei prossimi mesi. Ancora un augurio di buone feste e grazie per essere state in nostra compagnia, da Federico Taddia.